Care amiche, cari amici, benvenuti a un episodio extra, un episodio speciale del podcast dedicato alla storia dell'Arma dei Carabinieri. Naturalmente, se volete scoprire la storia dell'arma, siete la storia d'Italia, siete nel posto giusto. Come sempre vi ricordo di seguirmi sul canale Telegram Storia dei Carabinieri, dove troverete anche altre informazioni. Fuori dalla normale programmazione a cui siete abituati, ci muoviamo nel territorio delle interviste. Vi ricordiamo le precedenti interviste, la prima al generale Vincenzo Pezzolet su uniformi dei carabinieri in Regno di Sardegna, poi al dottor Diego Scarabelli sui carabinieri e il contrasto alla mafia nel secondo incontro. Quindi siamo giunti alla preziosa intervista con Domenico Di Petrillo, ufficiale dei carabinieri in congedo e autore di un libro dedicato alla lotta contro il terrorismo negli anni caldi del contrasto all'eversione. Oggi invece ci spostiamo nel campo più militare. Con l'autore di oggi, Paolo Formiconi, parliamo del volume Missione Siberia, i soldati italiani in Russia 1915-1920, pubblicato nel 2019 dallo Stato Maggiore della Difesa, Quinto Reparto Ufficio Storico. Chi è Paolo Formiconi? Nato nel 1982, laureato in storia moderna, specializzato in storia contemporanea presso l'Università di Siena, diplomato vecchio ordinamento come archivista paleografo nella prestigiosa e disciolta scuola speciale archivisti bibliotecari. Membro della Società Italiana di Storia Militare, si occupa di storia militare italiana del XIX e XX secolo. Oltre al volume in questione, ha pubblicato la biografia Eugenio De Renzi, un protagonista della Grande Guerra, per l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, e con Alberto Beccarelli La Quinta Sponda, una storia dell'occupazione italiana della Croazia, per l'Ufficio Storico di Stato Maggiore Difesa. Caro Paolo, benvenuto e grazie per aver accettato l'invito. Da maggio del 2020 ricordo che è stato lanciato il podcast Storia dei Carabinieri con l'obiettivo di far conoscere la storia dell'arma e in particolare degli uomini che hanno indossato l'uniforme da carabiniere. Nelle interviste precedenti abbiamo parlato di uniformi e equipaggiamenti, criminalità organizzata, episodi banditeschi e eversione. Con te ci muoviamo in un altro settore dove l'arma è stata presente, le missioni all'estero. Ti chiederei di introdurre brevemente il tuo lavoro. Grazie Flavio. Il libro in realtà parla di una missione all'estero che inizia con qualcosa di diverso, perché è ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Diventa una missione all'estero dal momento in cui la Prima Guerra Mondiale finisce, e però resta il problema di una presenza militare italiana in Russia non prevista in quelle forme all'inizio. Ora, è un po' una caratteristica di tutte le missioni militari quella di trasformarsi in qualche cosa che se no non ci si manderebbero i militari, se fosse tutto prevedibile, facile e programmato. Ma in questo caso siamo veramente di fronte a uno scenario strano, imprevisto e incomprensibile per tutti quelli che ci si sono trovati a che fare, perché la missione militare in Russia nasce prima ancora dell'ingresso dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale, nel momento in cui i russi catturano alcune decine di migliaia di soldati che provenivano dalle regioni del nord-est italiano, all'epoca ancora sotto l'impero austro-ungarico. Si tratta di circa 20.000 uomini, secondo le stime. Non tutti si consideravano italiani, ma molti sì. E a quel punto il governo russo ha l'idea di offrire all'Italia, che è ancora neutrale, la restituzione di questi prigionieri, che in realtà erano cittadini austriaci, ma se si fossero dichiarati italiani, potevano essere, diciamo così, evacuati in Italia, in quel momento paese neutrale. L'Italia rifiuta perché avrebbe significato una infrazione della neutralità, ma quando poi nel maggio 15 l'Italia effettivamente entra in guerra con l'intesa, la proposta viene accolta, se non altro come colpo propagandistico nei confronti dell'impero austro-ungarico, che aveva un grosso problema di diserzione e di fedeltà da parte delle nazionalità minori. Non so soltanto gli italiani, che erano relativamente pochi, ma per esempio i cecoslovacchi, i romeni, per non parlare poi dei reggimenti serbi. E a questo punto viene inviata in Russia una missione con il preciso compito di girare i campi di prigionieri, raccogliere le adesioni e organizzarle il rimpatrio. I tempi sono quello che sono, le difficoltà sono quello che sono, immaginiamoci la Russia nella prima guerra mondiale, non esattamente il posto migliore del mondo, i tempi dell'amministrazione, della burocrazia erano, la burocrazia russa era famosa per questo, per cui arriviamo al 1917, che soltanto una parte di questi prigionieri erano stati raccolti e fatti rientrare in Italia. Nel momento in cui scoppia la rivoluzione di marzo e quindi cade lo zar, una buona metà era ancora in Russia. Ecco, io ti chiederei proprio adesso, per entrare nel cuore del tuo lavoro, di iniziare dall'istituzione della missione speciale retta dal colonnello Bassignano, ma dove troviamo la presenza di un ufficiale dell'arma, un ufficiale per i carabinieri molto importante, che è Cosimo Manera. Una figura leggendaria a sua volta, che diventerà negli anni successivi, con la fine della prima guerra mondiale, quindi con le nuove province annesse al Regno d'Italia, diventerà una figura leggendaria anche per gli irredenti. E puoi dare qualche indicazione su questa prima parte della presenza italiana, questa missione speciale che è sotto gli ordini di Bassignano, e come Cosimo Manera si attiva per raggiungere gli obiettivi che la missione doveva conseguire? Cosimo Manera emerge come figura importante proprio in questo momento, perché lui arriva in Russia contemporaneamente alla rivoluzione. Lui arriva con due colleghi che sono un tenente, poi capitano, che si chiama Bazzani, che è un trentino, e poi con un tenente che si chiama Icilio Bacic, che invece è un fiumano, quindi c'era una specie di lottizzazione di questa missione in modo che potessero interloquire con tutti e due i tipi di vedenti. E poi c'era lui, che era un personaggio, quei due erano ufficiali di complemento, non erano militari di carriera. Cosimo Manera invece era non soltanto un ufficiale di carriera, ma era, sebbene relativamente giovane, era un vecchio arnese dei servizi segreti fondamentalmente. Lui aveva avuto nei Balcani una rilevante esperienza come istruttore della gendarmeria macedone, sapeva il russo, che visto che doveva andare in Russia non bastava, parlava naturalmente il francese, aveva qualche cognizione di inglese e di tedesco, aveva lavorato in un ambiente internazionale, nel senso sapeva rapportarsi con ufficiali militari di altri eserciti, che non era esattamente comunissimo all'epoca, per noi oggi sembra quasi una cosa normale che un militare ad alto livello, ma anche a medio livello, si interfacci con colleghi stranieri. All'epoca era una cosa vista quasi con diffidenza. E poi soprattutto era un abile conoscitore di situazioni, nel leggerne spesso, come vedremo, qualcosa che sarà utilissimo, nel leggerne soprattutto gli sviluppi che stavano per avvenire. Noi non sappiamo esattamente se la sua designazione sia stata fatta in previsione che ci sarebbero stati problemi. Certo che quando i problemi si verificarono, lui di fatto sarà la figura centrale della missione per il recupero dei prigionieri. Perfetto, grazie mille. E tu hai parlato in realtà di ufficiali segreti, mi sembra fosse una, come possiamo dire, una affermazione un po' forte, perché tutti gli ufficiali che operavano all'estero, sia come detti militari, sia come ufficiali inseriti in missioni di addestramento, formazione, monitoraggio e come dire, supporto alle forze militari, barra forze dell'ordine, facevano un'attività naturalmente di intelligence in quegli anni. Quindi dal mio punto di vista di storia dei carabinieri lo vedo più come un ufficiale dei carabinieri che si dimostra estremamente versato nella gestione di situazioni che vanno al di là dei limiti di una normale situazione che si può trovare in territorio estero, più che ufficiale dei servizi segreti. Mi pare che neanche De Rossi non lo cita nelle sue memorie come un elemento di interesse. Non ha lavorato all'ufficio I. dello Stato Maggiore degli Eserciti, non faceva parte della struttura informativa permanente dell'esercito a cui il carabiniere apparteneva all'epoca. Apparteneva però a quell'area a cui afferivano fondamentalmente tutti quanti gli addetti militari, ma era una cosa pacifica e accettata che metà del lavoro dell'addetto militare, anche il 51%, fosse fondamentalmente di fornire informazioni militari. E un po' tutte queste missioni che cominciano in realtà nell'ultima parte dell'Ottocento, quando si cerca anche con generose intenzioni di creare un equilibrio internazionale in cui le nazioni si parlino e cooperino, ricordiamo le convenzioni dell'AIA, questi ufficiali che si inseriscono in questi ambiti devono avere, appunto, sì, non volevo dire che facessero 007, ma devono avere una capacità che non è solo militare. Nel caso di Manera, quando lui arriva in Russia, arriva il momento in cui, per dirne la prima che mi viene in mente, l'albergo dove deve andare ad alloggiare assieme ai due colleghi, che è l'albergo Astoria, loro quando entrano devono scavalcare una pozza di sangue, perché nell'albergo c'è stata una battaglia fra i soldati fondamentalmente che si sono uniti ai manifestanti e i gendarmi che si erano appostati sull'albergo a sparare, e per cui poi questi avevano fatto irruzione, avevano scannato una certa quantità, c'erano i muri con i buchi di proiettile, insomma il governo con cui dovevano avere un'interlocuzione non c'era più, ce n'era un altro rivoluzionario. E qui ti voglio, infatti, qual è la situazione della Russia con la pace di Brest-Litovsk, e dove si trova naturalmente, come dire, nei fanghi di quella situazione si trova anche, diciamo, questi ufficiali italiani, e qual è la situazione per gli irredenti con la pace di Brest-Litovsk e con chiaramente l'uscita della Russia dalla guerra mondiale, ma non dai problemi interni? Il governo rivoluzionario russo dice che ritorno che il rimpatrio degli irredenti non è una priorità, quindi gli italiani devono fondamentalmente arrangiarsi. Oltretutto ci sono ancora i ghiacci e quindi questo è lo stato delle cose. Però ci tiene inizialmente a tenere buoni rapporti con gli italiani. Allora viene maturata l'idea, in parte la suggerisce Bassignano, in parte è l'unica cosa da fare, di evacuarli attraverso Vladivostok, che sta letteralmente all'altro capo del mondo. Per cui a questo punto gli irredenti andavano riorganizzati, caricati sui treni e portati. Manera assume il comando del campo di Kirsanov, che era il campo più grande dove venivano concentrati questi irredenti di lingua italiana che avevano optato per l'Italia. E deve, mentre i suoi due colleghi cercano di completare questa ricerca dei prigionieri, con il governo russo che diventa sempre meno paziente e sempre meno collaborativo. Al momento in cui cominciano le partenze, cade il governo russo rivoluzionario, perché siamo arrivati all'ottobre-novembre 1917, cioè vanno al potere i bolscevichi, i quali erano ancora meno flessibili, ancora meno collaborativi del precedente governo, anche perché la loro priorità era la guerra, era fare la pace con la Germania e l'Austria. Immaginate voi, per gli irredenti, ex sudditi austriaci che avevano optato per l'Italia, la prospettiva di rimanere in Russia con il rischio concreto di essere riconsegnati agli austriaci. La prospettiva di essere impiccati era molto probabile. Per cui comincia all'interno del campo anche una certa agitazione. C'è già qualcuno che dice: io torno indietro e mi riprendo la cittadinanza, recedo dalla scelta di sentirmi italiano. Oltretutto molti di questi effettivamente italiani non erano, avevano aderito francamente per andarsene dal campo di prigionia, parlavano un po' l'italiano perché tutti lo parlavano. Oltretutto inizia una propaganda fatta da agenti che venivano dai campi di prigionia, che ancora c'erano, austriaci e tedeschi, una contropropaganda, cioè tornate con noi, perché il colpo propagandistico a quel punto sarebbe stato grosso. Le potenze dell'intesa fanno chissà quali promesse, poi non sono capaci di evacuarli, invece noi, per cui addirittura ci sono degli allettamenti, non vi facciamo niente se ripassate con noi. E qui poi entra un po' in ballo, secondo me, questo XEO, cioè di cosa si tratta e come nasce, che tu già stai dando qualche indicazione, e diamone anche un quadro generale, con diciamo, la nascita e con la trasformazione da questi prigionieri in qualcosa di diverso, da, diciamo, optanti in qualche modo, e poi dopo qui i redenti. La questione si complica ulteriormente, io chiedo scusa in anticipo, ma è quasi impossibile non confondersi, perché a questo punto si inseriscono due elementi diversi. Innanzitutto, a livello di politica estera esiste un corteggiamento da parte delle potenze dell'intesa, cioè quindi Francia, Gran Bretagna, Italia, a questo punto Stati Uniti, verso i bolscevichi, perché non facciano la pace con l'Austria e la Germania, che poi sarà la pace di Brest-Litovsk, che invece verrà firmata a marzo. Dall'altra parte ci sono pressioni molto aggressive degli austro-tedeschi perché la pace avvenga. Cosimo La Nera è molto abile, Bassignano è a un certo momento anche tagliato fuori per ragioni logistiche, perché lui ha dovuto seguire in qualche maniera, l'Italia non aveva più rappresentanze diplomatiche autorizzate a un certo momento, c'era un generale, Romain Onghena, che era il rappresentante militare, che a un certo momento fa quasi anche da ambasciatore. Manera deve fare da solo, sta a Kirsanov, deve gestire lui questi 3.000-3.500 soldati, e in un momento di buona, di luna di miele fra le potenze dell'intesa e i bolscevichi, riesce a stappare l'accordo per imbarcarli finalmente sui treni e portarli a Vladivostok. E ci riesce, questo è bello. Oh, bisogna tenere presente che lui riesce ad entrare in sintonia con questi nuovi leader militari, che non erano militari, o spesso erano sergenti o ex soldati bolscevichi, con i quali evidentemente riesce a parlarsi. C'è il fatto che parlasse russo, forse. E per cui questi vengono portati a Vladivostok con i treni, attraversano la Siberia. Contemporaneamente però volgono al brutto i rapporti fra intesa e governo bolscevico. Perché? Perché il governo bolscevico firma questa benedetta pace a Brest-Litovsk, per cui esce dalla guerra con tutte le conseguenze del caso. E a questo punto le potenze, per operare una pressione sui bolscevichi e magari farli recedere da questa pace, comunque fargli avere un'attitudine meno collaborativa con i tedeschi, cosa fanno? Sbarcano dei piccoli contingenti di oceano, ma sbarcano dei contingenti militari nei porti del mare glaciale artico, di Murmansk e Arkhangelsk, ma soprattutto a Vladivostok, lì dove stavano arrivando gli irredenti, per mettere sotto controllo i grossi magazzini di armi che già erano state sbarcate prima della rivoluzione, ma anche per operare una forma di minaccia. E a questo punto gli irredenti si trovano nel cuore della Russia nella condizione di quasi ostaggi. La cosa stupefacente è che con Mano Nera, Bazzani e Bacic riescono a mantenere il controllo di questi uomini in quella situazione. Arrivati a Vladivostok, cosa scoprono? Scoprono il ceseo, cioè che il governo italiano aveva costituito letteralmente raschiando il fondo del barile, perché non ci dimentichiamo che nel frattempo c'è una guerra mondiale che va avanti con le sue dinamiche. Se uno segue gli eventi di Russia, la guerra mondiale sembra una cosa sullo sfondo, si vive in una realtà quasi parallela, ma lì il conflitto continuava. E quindi recuperando due compagnie in Eritrea, qualche cosa in Sicilia, andando a prendere qui e lì un piccolo contingente per mandarlo a Vladivostok. E a quel punto a qualcuno viene l'idea geniale: visto che non li possiamo rimpatriare tutti quanti perché le navi sono poche, perché non gli proponiamo di arruolarsi? Ecco, qual è il ruolo di Manera nel corso della presenza italiana a Vladivostok? E poi non dimentichiamo, c'è la Manciuria, c'è Pechino, c'è Tianjin. Come riuscì a gestire le truppe ai suoi ordini? Cosa succede a Vladivostok e in realtà nell'estremo oriente? Allora, il passaggio è estremamente complicato perché, come abbiamo detto, i rapporti fra intesa e governo bolscevico peggiorano bruscamente e diventano quasi di guerra aperta, anche se mai dichiarata e mai guerra fino in fondo. Manera riesce a mantenere il controllo di questi circa 3.000 a questo punto irredenti e a portarli a Vladivostok. Lui ha durante il viaggio riceve l'offerta da parte di alcuni membri di un governo russo, uno dei tanti governi russi che in quel momento c'erano, la Russia era immersa in una situazione estremamente confusa, un governo russo in Estremo Oriente, di partecipare alla guerra contro i bolscevichi. Proposta che lui rimanda, chiaramente non poteva decidere lui, in Italia, senza sapere che in Italia l'idea era già stata colta. Il corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, il CESEO, era stato deciso già all'interno di queste missioni militari in Russia, raschiando il fondo del barile, recuperando un po' di soldati in Eritrea, altri richiamati, altri ultrareduci. Quando lui sa che l'idea è stata accolta e di cominciare quindi a raccogliere le adesioni fra gli irredenti, li porta lui in Cina, perché in quel momento Vladivostok non era nelle condizioni di poter accogliere gli italiani. C'era sostanzialmente una guerra in corso fra i bolscevichi che non volevano andarsene e i reparti giapponesi, britannici e fra un po' anche americani e canadesi che stavano arrivando. Gli italiani vanno in Cina, dove l'Italia aveva una piccola concessione, Tianjin, per riorganizzarsi. E qui arrivano anche i primi ufficiali dei carabinieri mandati ad aiutare Manera in questa opera di selezione. Mentre sta arrivando anche l'uomo che sarà destinato a prendere il comando del contingente, che Manera aveva sperato di avere e che invece non avrà. Manera era pur sempre un maggiore, lì anche per rapportarsi ad alto livello con le altre potenze era necessario un tenente colonnello, se non un colonnello, come poi sarà alla fine. Manera viene quindi in questa fase progressivamente emarginato, come anche Bazzani e Bacic, visto che non si tratta più di organizzare gli irredenti, ma di organizzare un reparto militare combattente, si ritiene di affidare questo incarico ad altri e di fare una selezione fra gli irredenti, i quali non sono particolarmente entusiasti all'idea di riarmarsi. E immaginate questi uomini partiti dal Friuli e dal Trentino, mandati in Galizia, quindi fondamentalmente in Ucraina a combattere, catturati, portati nella Russia interna, quindi rimandati in Ucraina, quindi portati verso il Mare del Nord per essere evacuati, quindi poi invece mandati a Vladivostok, da qui in Cina. Ora gli viene detto di riarruolarsi e di tornare a combattere chissà dove, in Asia centrale. Era più che probabile che ci sarebbero stati dei problemi a convincerli. L'approccio che questi ufficiali dell'Italia hanno non è dei più felici inizialmente, e anzi all'interno degli irredenti comincia a serpeggiare un malumore sempre più violento. A un certo momento alcuni si rifiutano persino di partecipare all'appello mattutino. Si è quindi costretti in qualche modo a richiamare Manera, che a questo punto aveva già chiesto di essere rimpatriato, a richiamarlo e a chiedergli di mettere mano per la seconda volta all'organizzazione di un contingente presentabile. E Manera quindi si rivela ancora una volta una persona estremamente capace. Lui parla molto duramente e molto chiaramente agli irredenti: chi vuole tornare a combattere tornerà per primo, tutti gli altri, nessuno è obbligato, possono scegliere se arruolarsi nei servizi logistici, non combatteranno ma rimarranno in Cina o a Vladivostok a dare fondamentalmente una mano, inquadrati militarmente. Gli altri, tutti quanti gli altri che invece non vogliono cooperare, e rientreranno per ultimi. Quindi se questo è lo stato dell'arte, c'è una guerra in corso e sta a voi la scelta, nessuno vi costringerà. Le adesioni furono di 900 unità su 2500 complessivi, quindi un numero relativamente alto se pensiamo a tutto quello che questi uomini avevano subito. Bisogna dire che 727 furono imbarcati, erano quasi 3.000, erano poco più di 3.000, 727 furono imbarcati subito perché troppo vecchi o troppo malati. Gli altri vennero riportati a Vladivostok, che a questo punto era sotto controllo. Qui Manera rimase come comandante del deposito, cioè fondamentalmente era il responsabile di tutte le operazioni logistiche. Immaginatevi che significa alimentare un contingente che deve andare nella Russia centrale, dove sono destinati gli italiani, alimentarlo da Vladivostok, che se uno guarda la carta, non dico della Russia, ma la carta del mondo, sono migliaia di chilometri. Nel frattempo arriva da Tokyo il nuovo comandante, il rappresentante italiano presso la missione, che è questo colonnello Filippi di Baldissero, e a questo punto col nuovo comandante, scusatemi di orizzontarsi per tanti nomi, un po' tutti quanti doppi perché erano quasi tutti nobili, che si chiama Fassini Camossi, finalmente il Cisero riparte per l'Asia centrale. E qui l'ultimo dei colpi di scena della storia, arrivati a Krasnojarsk, che era la loro destinazione, trovano la tenda dei soldati italiani. Qui siamo già nella Siberia italiana, e quello è un po' il capitolo che tu hai dedicato e intitolato in questo modo. Perché? Parlaci un po' anche di questo nuovo contingente italiano che curiosamente spunta un po' da nulla, e poi quali sono le relazioni tra il Ciseo o Xeo e questi uomini già presenti in Siberia. Bisogna dire che Cosmonera qui è già uscito di scena in gran parte, lui rimarrà a Vladivostok all'interno del comando alleato, della missione italiana presso il comando alleato. Quando arrivano a Krasnojarsk sotto il loro comandante, trovano dei soldati in uniforme italo-russa, diciamo così, ma con le mostrine, che soprattutto avevano una bandiera tricolore alzata sulla stazione. Erano stati organizzati da un ex ufficiale di complemento della Guardia di Finanza, ex giornalista, ex imprenditore nel ramo del grano e dei pastifici. L'Ucraina ha tradizionalmente una ottima produzione di grano. Questo signore, che si chiama Andrea Compataggio, veniva da una parte dell'Italia, Gragnano, molto famosa per le paste della fila del bronzo, era stato mandato lì come agente di commercio, ci si era trovato bene e durante la rivoluzione non aveva trovato di meglio da fare che organizzare i prigionieri scappati dai vari campi che erano rimasti senza guardie. C'erano molti italiani che la missione italiana non aveva ancora trovato. Parliamo di una zona che non è più l'Ucraina, siamo verso il Kazakhstan, Astrakhan, quella zona lì. Probabilmente in branca anche gente che di italiano non aveva niente, c'erano turcomanni, finlandesi, persino qualche tedesco, sembra, molti ungheresi. Li organizza in questo battaglione che lui chiama Battaglione Savoia, sequestra un treno, raggiunge la città di Krasnojarsk e sostanzialmente la occupa e la governa lui per alcuni mesi. E quando gli italiani arrivano a Krasnojarsk, e però per questo che il governo russo antibolscevico, che in quel momento sta cercando di mettere in piedi uno stato per combattere i bolscevichi, deve dire dove preferisce gli italiani vadano, dovendo trovare un posto, dice ma andiamoli lì, c'è già una specie di contingente italiano, forse fra di loro si intenderanno. Come avrete già intuito, ci saranno alcuni problemi, perché gli italiani, quelli che lo erano, del battaglione Savoia non avevano nessuna intenzione di mettersi agli ordini di questo contingente regolare che arrivava, il quale non aveva nessuna intenzione, figurarsi il colonnello Fassini Camossi, colonnello di cavalleria, di coabitare fondamentalmente con un potere autoproclamato. Alla fine la situazione verrà sciolta, nel senso che questo battaglione Savoia verrà imbarcato sul treno, spedito a Vladivostok, e qui in qualche maniera verrà soggetto a una selezione simile a quella fatta per gli eredetti. Verrà chiesto, innanzitutto si sceglierà chi è italiano e chi non lo è, verrà verificato, e poi chi vorrà continuare a combattere potrà arruolarsi e poi eventualmente essere rimandato per la seconda volta lì, e gli altri mandati per i fatti loro. Bene, dunque mi sembra interessante che Manera in qualche modo durante l'assenza... Ah, se non occuperà Manera di questa ecco, cosa, certo. Se non occuperà poi Manera. Da alcune carte custodite presso la Direzione dei Beni Storici e Documentari dell'Arma o all'epoca al museo, mi pare che anche Manera in quel periodo fu nominato addetto militare in Giappone proprio per l'assenza di uno di questi ufficiali. Hai qualche memoria di questa cosa o nelle tue carte non è emerso nella tua ricerca? Allora, l'addetto militare in Giappone, che era il colonnello Filippi di Baldissero, era stato mandato a Vladivostok, per cui aveva, per non spendere un altro ufficiale in Estremo Oriente, lasciando vacante però il posto a Tokyo. Manera, che aveva a questo punto chiuso la sua esperienza in Russia, visto che gli eredenti sostanzialmente erano in via di essere rimpatriati o erano sotto altra autorità, doveva essere reimpiegato. Perché non utilizzarlo per mandarlo a fare non l'addetto militare, ma diciamo così, l'addetto militare in sede vacante? Lui non è mai ufficialmente l'addetto militare, è il facente funzioni. Io non ho mai trovato, per la verità, perché non ho visto il foglio, il libretto personale di Cosimo Manera, se lui ricopre la carica a tutti gli effetti a un certo momento. So però che Filippi di Baldissero, dopo la fine dell'esperienza a Vladivostok, torna in Giappone e riprende la carica di addetto militare. In ogni caso, questo possiamo dirlo, Cosimo Manera rappresenta, sia pure in maniera temporanea, il primo ufficiale dell'arma che ricopre questo incarico, sia pure soprattutto in Estremo Oriente. Ma in questa maniera faceva un po' di tutto. Quando esisteva un'esigenza a cui non si sapeva come fare fronte, si ricorreva a lui. È l'uomo per tutte le stagioni, è l'uomo capace di gestire le situazioni più difficili, è anche l'uomo che a un certo punto torna all'Estremo Oriente. Ci puoi parlare del ritorno della cosiddetta legione redenta e del maggiore Cosimo Manera? Come finisce questo Ciseo e Manera? Sì, legione redenta è il nome che viene dato, perché in questo me l'ho dimenticato di dirlo, quando vengono portati dall'Ucraina a Vladivostok, quella era chiamata la legione irredenta, perché c'era la guerra in corso e questi provenivano dalle regioni irredente, il Trentino, l'Istria, il Friuli, la Venezia Giulia. Ora che la guerra è finita, perché nel frattempo la guerra mondiale è finita, anche se lì la cosa era secondaria, queste regioni erano redente, nel senso che erano parte del Regno d'Italia, e quindi i nuovi arruolati non erano più i battaglioni irredenti, ma i battaglioni degli italiani redenti. E sarà con questo nome che verranno rimpatriati nel 1920, quando l'intervento interalleato contro la Russia avrà termine, diciamolo pure, in maniera abbastanza inconcludente e lasciando una situazione che era né più né meno quella trovata con l'arrivo, per cui un intervento fallito sostanzialmente, e quasi segretamente, quasi alla chetichella, verranno sbarcati a Bari e a Napoli, e poi col pacco vestiario e il biglietto del treno per tornare a casa, verranno silenziosamente, sostanzialmente, congedati e dimenticati. Di questa missione per tantissimo tempo non si parlerà più. Beh, se ne parla un po' nella storia dei Carabinieri. La figura di Manera, soprattutto in queste vicende dei redenti, è presente addirittura sin dai primi momenti della istituzione del museo, e ci sono testimonianze che riguardano proprio un'area dedicata al ricordo e alle celebrazioni che tra la fine anni 20 e inizio anni 30 soprattutto i trentini di alcune valli trentine fecero a Cosimo Manera. Bene, direi che possiamo considerare conclusa la nostra chiacchierata sulle vicende degli italiani in Russia tra il 1915 e il 1920. Caro Paolo, ti ringrazio molto per la cortesia nell'accettare l'invito di Storia dei Carabinieri e per la chiarezza espositiva che ci ha permesso di comprendere un periodo della storia nazionale particolarmente complesso e sicuramente meno noto. Mi auguro che avremo altre occasioni per poter scambiare qualche parola ancora davanti ai microfoni. Magari, grazie a voi. Eccoci dunque al termine, ringrazio chi ci ha seguito e l'invito a leggere il volume Missione in Siberia, i soldati italiani in Russia 1915-1920 di Paolo Formiconi, pubblicato nel 2019 dallo Stato Maggiore della Difesa, Quinto Reparto Ufficio Storico. Invito tutti a scaricare e ascoltare gli episodi del podcast in attesa di una nuova intervista extra come questa con Paolo Formiconi. Ringrazio nuovamente Paolo per averci concesso il suo tempo e la sua disponibilità. Infine, vi aspetto sul canale Instagram Storia dell'Arma dei Carabinieri. Non mancate, a presto. Grazie.